in tanti anni che ci occupiamo di questi temi, non avevamo mai percepito una situazione critica come questa, e che è una storia della quale non riusciamo a immaginare la fine. Da Caivano ad oggi c'è stata una crescita delle presenze nelle carceri minorili di quasi il 50%, cioè diciamo dall'insediamento del governo a oggi di quasi il 50%, e l'impennata è stata ovviamente dopo Caivano. Questi numeri sarebbero molto più alti se non fosse che il decreto Caivano ha semplificato la procedura per spedire i ragazzi al compimento della maggiore età nelle carceri per adulti. Mandare un ragazzo agli adulti significa sostanzialmente rinunciare a lui. Non ci interessi più e mandarlo in quella fabbrica di criminalità che sono le carceri per adulti. Ieri il capo dipartimento si è anche rivendicato, d'altra parte il decreto Caivano è proprio frutto della loro cultura, quindi ha rivendicato che bisogna usare la nettezza e le maniere forti anche con i minorenni, perché dove ci sono diritti ci sono doveri. Noi abbiamo sempre vantato, diciamo, un sistema di giustizia minorile in Italia che non era un sistema improvvisato, cioè al codice di procedura penale minorile del 1988 ci si è arrivati dopo un percorso culturale, ma non solo culturale, penso anche ad una serie di sentenze della Corte Costituzionale, profondo e radicato nella società italiana, e quel modello di giustizia minorile codificato poi in quel codice era un modello dove i diritti e i doveri si costruivano in un modo dialogico, si costruivano con un approccio di tipo educativo a questi ragazzi. Le carceri minorili non devono rieducare, cioè devono educare, sono dei ragazzini, stiamo parlando. Ecco, oggi in carcere noi percepiamo delle tensioni mai viste prima. Abbiamo notizie e segnalazioni di una chiusura del sistema mai visto prima. Si chiudono attività in giro per le carceri minorili di tutta Italia, le tensioni crescono e questi ragazzi protestano. Non fanno delle pericolose rivolte per cui bisogna gestirli con gli stessi strumenti con cui gestiamo gli adulti. Ci sarebbe una grande necessità di stemperare gli animi piuttosto che enfatizzare questi gesti, come tante volte sentiamo fare, in particolare da alcuni sindacati di polizia penitenziaria. Ci sarebbe bisogno di ascoltarli, cosa che nessuno finora ha fatto, e adesso con il reato di rivolta penitenziaria ovviamente continueremo a seppellirli sotto altri cumuli di carcere. Le carceri minorili sono cambiate anche qualitativamente, non solo quantitativamente, negli ultimi anni. Come ti dicono gli operatori, è cambiata l'utenza, loro dicono. Che cosa vuol dire? Ma prima di tutto che abbiamo oggi un numero enorme di minori stranieri non accompagnati. Sono ragazzi che entrano molto spesso in carcere già con delle dipendenze importanti, dipendenze prima di tutto da queste, diciamo, droghe dei poveri che si vendono per strada a basso prezzo e che in carcere continuano ad essere gestiti con dosi massicce di psicofarmaci, un'inchiesta che noi facemmo con Altra Economia mostrò come la spesa in PM di psicofarmaci è 5 volte superiore al territorio circostante. Vengono gestiti con continui trasferimenti punitivi, vengono gestiti con il sistema disciplinare e tanti isolamenti, e poi con il carico di altri reati, perché parliamo di ragazzini con un passato tragico alle spalle, che possiamo perfettamente, hanno vissuto dove aver fatto il viaggio, essere arrivati in Italia, aver lasciato i genitori, le cose, arrivano qua, noi li accogliamo come li accogliamo, vivono per strada magari 2 anni e poi finiscono per incrociare il carcere. Quindi sono ragazzini che possiamo tranquillamente immaginare che abbiano un problema di gestione delle emozioni, dell'aggressività, eccetera, e quindi litigano col compagno di cella e gli danno la rissa, poi danno un calcio alla sedia, la spaccano e gli danno il danneggiamento, dicono la parolaccia alla gente e gli danno l'oltraggio al pubblico ufficiale. Per questi ragazzini entrano con un reato, dopo 6 mesi ce ne hanno 10. Nelle carceri minorili non ci vanno i più pericolosi, ma ci vanno i più marginali, ci vanno quei ragazzi per i quali il sistema non riesce a trovare una collocazione alternativa, non riesce o non vuole. Quello che noi percepiamo con forza in questa fase, dal momento dell'insediamento di questo governo ad oggi, con nettezza chiara, è che il mandato che oggi si affida alle carceri minorili non è un mandato di reintegrazione sociale, ma proprio il contrario, è noi società, questi ragazzini, noi vogliamo, non sappiamo dove metterli, quindi teneteveli voi, non ce li ridate indietro, più li neutralizzate, è un mandato di neutralizzazione. Veramente questa storia non sappiamo come andrà a finire.